Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. La 1:59. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre. FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Porca picchita va bene, se tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. Oh,

Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Please don't go. Please don't go. Please don't go. música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, la música disco. Thank you. little baby. Sophisticated mama. Come on, you disco lady. Yeah, stay with me tonight, mom. Yeah. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. The sexy girl. Estrellas de Medianoche, una canción reggae. This generation rules the nation with version. Music and the food of love. Chip on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It a go burn. Give me the music, make me jump and run. It a go done. Give me the music, make Jenna. Me jump and run. It was a cool and lonely breezy afternoon. How does it feel when you got no food? I could feel it cause it was the month of June. How does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. How does it feel when you got I heard them say, how does it feel when you got no food? Pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and prance. It a go done. Give me the music, make me rock in a di dong. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. So I stopped to find out what was going on. How does it feel when you got no food? Spirit of Jah, you know he leads you on. How does it feel when you got no food? There was a ring of dreads and the session was there in swing. How does it feel when you got no food? And you could feel the chill as I seen and heard them say. How does it feel when you got no food? Pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It a go fun. Give me the music, make me jump and pump. It a go done. Give me the chip on the left hand side. I say, pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and prance. It a go done. Give me the music, make me rock in a di dong. You play it on the radio, and so me say we a go hear it on the stereo. And so me know we a go play it on the disco. And so me say we a go hear it on the stereo. Stereo. Pass the dutchie on the left hand side. I say, pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and prance. It a go done. Give me the music, make me rock in a di dong. On the left hand side. I say. On the left hand side. I say. On the left hand side. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. de los 80 en Estrellas de Medianoche. On a train, you see, girl, that's what I go through every day. Is this? Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. I won't waste your high, don't waste mine. If you want my trust, then take your time. Late in the evening, I want you. My heart goes la-dee-da-da-dee-da, la-dee-da-da-dee-da, la-dee-da-da-dee-da. My heart goes la-dee-da-da-dee-da, la-dee-da-da-dee-da, la-dee-da-da-dee-da. Come and play. Patience is a virtue, so they say. Late in the evening, I want you. I do what I got to feel you in me. I already told you to hold me. I already told you. My heart goes. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Estrellas de Medianoche, de 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta la 1 de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music y lo más reciente de las baladas anglo. De 1 a 3 de la mañana, los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge. Y los fines de semana, un repertorio para los amantes del dance y todos sus géneros: house, electrónica, disco, reggae. Si vas a trasnochar, si te desvelaste, escucha la programación que te ofrece Estrellas de Medianoche. De 11 de la noche a 3 de la mañana, el sonido de todas las décadas, la evolución de la música anglo. Estrellas de Medianoche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 3 de la mañana, en punto. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural. La radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Al aire, música de madrugada por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Música de madrugada. En la emisora cultural de Pereira, música de madrugada. Música de madrugada. Smooth jazz, nueva música instrumental, bossa nova y new age. Música de madrugada por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Música de madrugada.